Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. I tratti somatici la facevano senza dubbio assomigliare ad una scimmia. Era impressionante. Cortese, educata, parlava un inglese approssimativo e gutturale, ma era il ritratto vivente di una scimmia. Io sono Melissa Monteferri, beh, gli anni non li dico, ma sono tanti. Abito in una casa in campagna a Velletri, dove quasi tutti abitano in campagna. Quando ero un bambino alle scuole elementari del mio paese, che poi era 500 metri da casa mia, nemmeno in classe con me, proprio nella stessa scuola, c'era un bambino che era più grasso del normale. Poi ovviamente si diceva che aveva dei problemi alle ghiandole, però non era particolarmente grasso, non era obeso, però era un po' più grasso di tutti gli altri. E da bambino, anche se non sai esattamente che cosa significhi, capisci esattamente che cos'è un freak. Quel bambino lì, per noi, era diverso sostanzialmente, era più grasso e quindi era ovviamente bersaglio degli scherzi più terribili che i bambini, che le persone sappiano fare in realtà, che è una cosa che a ripensarlo quando sei adulto, quello che da bambino hai fatto alle persone diverse da te con qualche problema, ma nemmeno con un problema, semplicemente diverse da te, è una roba terribile, ti si gela veramente il sangue e giustifichi questa cosa dicendo: ma sai, i bambini sono spietati. Questa è una frase che si dice sempre, i bambini sono spietati. Io penso che non sia una cosa solo dei bambini, credo che quella cosa che si dice i bambini sono spietati è che ti mette un po' a posto con la tua coscienza, un po' che le persone sono spietate, poi con l'età ovviamente si smussano gli spigoli e si cerca di avere un certo rigore nel dire le cose, nel dare giudizi, però mi ricordo che addirittura una volta al Miglio, lo chiamavamo così, non dico il nome, era un soprannome, l'abbiamo chiuso in un armadietto per vedere se ci stava, nel senso che era talmente grassa che l'abbiamo proprio spinto dentro, poverino. Ecco, io non so che fine abbia fatto lui, io spero che lui stia bene, ovviamente che gli sia passata quella roba, probabilmente anche causata da quell'esperienza alle scuole elementari. Oggi però vorrei provare a fare questo gioco e lo faccio anche grazie alla storia di Marisa che vi racconterò a breve, a ricordare la volta in cui gli strani, i freak, eravamo noi. 349-238-6666 se avete un telefono di prima generazione e mandate gli sms, ma anche se avete un telefono normale e siete soliti mandare sms. Altrimenti, voi siete qui Radio 24 al nostro profilo Facebook, voi siete qui R24 al nostro profilo Twitter. Il mio profilo Twitter banalmente è semplicemente Matteo Caccia. La volta in cui il freak siamo stati noi, cioè i diversi siamo stati noi, per mille motivi, perché eravamo fuori con delle persone che non la vedevano come noi, perché eravamo a tavola con un gruppo di persone leggermente diverso e abbiamo avuto la netta percezione che ci guardassero come delle persone strane e magari non ci è nemmeno piaciuto. 349-238-6666 sul profilo Facebook già scrivono, Mario scrive e sono sempre io il freak, Marcello quotidianamente e poi Gianluigi: un giorno mi misi in mezzo ad una lite tra due automobilisti, uno stava avendo la peggio e cercai di proteggerlo dagli attacchi dell'altro. Giorni dopo, al tipico pranzo domenicale, la cosa venne fuori e ricordo le osservazioni sgomente dei parenti che mi guardavano come un pazzo. Ma se avessero avuto un coltello, e se ci fossi andato di mezzo tu, e non si sa mai, e lascia stare. E mi ricordo che dissi, e se fosse stati voi ad avere bisogno, ma al di là di questo, quella sensazione lì era quella di essere comunque fuori, di essere fuori da quel gruppo lì e quindi di sentirsi un po' un freak, un piccolo mostro. 349-238-6666, ripeto, pure voi siete qui, Radio 24. Dimitri scrive: hai voglia, quello che ascolta la musica del diavolo, heavy metal. Però la musica del heavy metal è la musica del diavolo negli anni 80, 90 forse. Per mia nonna era la musica del... ma no, non è vero, secondo me Non dispiaceva neanche lei. Ovviamente lo faccio ancora e tra l'altro ho apprezzato molto la citazione del documentario sugli Anvil. Ne abbiamo parlato venerdì e forse dopo lo posterò anche sul profilo Facebook, perché è una storia. Ecco, loro sono dei freak. Gli Anvil, se avete visto quel documentario, sono chiaramente diversi dagli altri. Della gente di 50 anni in un mondo in cui la gente fa dei lavori normali e loro ancora sono lì a dire: ma noi facciamo heavy metal. Ecco, se vi siete mai sentiti dei freak, oggi è la puntata per voi. 349-238-6666. La storia di Marisa è una storia da prendere con le pinze Perché è una storia da comprendere e ne parleremo più tardi. Da comprendere c'è, cioè, che ogni tanto tutti noi diventiamo degli idioti, banalmente. E questa è una delle modo in cui, in uno dei modi in cui lo diventiamo. Questa qui è la storia di Marisa. La parola Yeti mi fa sempre pensare al leggendario mostro delle nevi che vive nella mitica Shangri-La. Luogo fantastico, yemenita o tibetano, non mi ricordo più. Premetto che non ho mai visto uno Yeti, ma una Yeti, quella sì. Il giorno del mio matrimonio doveva arrivare da Napoli la mia amica Paola per farmi da testimone. Come al solito arrivò in ritardo e nel frattempo dovetti scegliere un'altra persona che la sostituisse. Quando Paola arrivò, era insieme ad un signore piuttosto maturo che né io né mio marito conoscevamo. Invitato da Paola, aveva fatto sosta a Velletri, dove abitiamo, per vedere la cerimonia e poi avrebbe preso un treno per Roma. Lo invitammo a rimanere anche per il pranzo e lui accettò. Fu così che conoscemmo Joseph Chevalier e instaurammo con lui una bella amicizia. Noi lo chiamavamo familiarmente Joe, ma mi imbarazza un pochino perché non c'è più da tanto tempo ormai. Però è una persona molto cordiale e piena di inventive, di risorse. Credo che se avesse potuto avrebbe progettato, che so, un viaggio sulla Luna. Nato casualmente a Malta intorno agli anni 20 da madre inglese e padre francese, aveva poi dovuto optare per la nazionalità definitiva che imponevano le leggi dell'epoca e del luogo. E lui scelse quella inglese. Quindi era a tutti gli effetti un inglese senza essere nato in Inghilterra. Aveva lavorato come giornalista e reporter per l'agenzia United Press e aveva avuto modo di visitare mezzo mondo, ma era affascinato dal modo di vivere semplice e in sintonia con la natura dei nativi delle isole Fiji. Erano gli anni 50, non c'era ancora il turismo di massa. Joe all'epoca conosceva molta gente del cinema. A Sophia Loren, ad esempio, aveva insegnato i primi rudimenti di inglese e conservava ottimi rapporti con Gina Lollobrigida. Da quando era in pensione, però, si era dedicato alla realizzazione di una sua vecchia idea, che stava poco a poco diventando un progetto reale e che negli anni Ottanta costituiva ancora una novità nel campo della fotografia. Si trattava di costruire un ingranditore fotografico che avesse delle caratteristiche particolari, utili ed interessanti per sé e per gli altri. A questo progetto lavorò fino alla fine, dedicandovi del tempo, delle energie e soprattutto del denaro. Progettava da sé il lavoro da realizzare, però poi doveva rivolgersi a delle officine meccaniche specializzate per l'esecuzione materiale di un perno o una filettatura. E più il lavoro procedeva, più gli venivano idee innovative da aggiungere, sicché il lavoro, come la tela di Penelope, non finiva mai. Joe non si era mai sposato, nonostante le molte fidanzate avute. Avendo però fratelli e sorelle, era circondato da tanti nipoti, tra i quali Roberto Chevalier, che di mestiere faceva l'attore. Da ragazzina avevo visto in TV uno sceneggiato, oggi si chiamerebbe fiction, in cui insieme a Roberto Chevalier c'era anche un personaggio così lascivo da essere indimenticabile, dal nome Uriah Heep. Credo fosse Nicola Nickleby. Credo che anche per questo ho sempre considerato Joe uno di famiglia. This is how island life. Sea and sun, earth and sky. Play all day, sleep all night. This is how island life. Island life. Ad un certo punto Joe affittò una piccola casa in campagna vicino alla mia per poter lavorare al suo gioiello, avvalendosi anche del supporto teorico e pratico di mio marito. Spesso lo invitavamo a pranzo e lui ricambiava invitandoci a sua volta. Sapeva cucinare ottime torte di riso, rustici con ripieno di verdure, zuppe di legumi. Peccato che abbondasse con le spezie, specie con il curry. Un giorno annunciò che l'indomani sarebbe arrivata una sua amica da una città me sconosciuta e addirittura ne ho dimenticato il nome. Così per l'indomani li invitai a pranzo. Mi aspettavo una donna minuta, dai lineamenti un po' asiatici, ma quando la vidi restai sconcertata. Piccola, magra, rossiccia e tutta pelosa. I tratti somatici la facevano senza dubbio assomigliare ad una scimmia. Era impressionante. Cortese, educata, parlava un inglese approssimativo e gutturale, ma era il ritratto vivente di una scimmia. Però mai avrei potuto immaginare che si potesse chiamare Yeti. Di nome. Noi non ci potevamo credere. Era come vedere un film di Fantozzi, quello in cui l'attore si spaventa solo a vedere la faccia di sua figlia Mariangela. Non è per essere cattiva nei suoi confronti, ma era una persona veramente difficile da giudicare, in effetti, perché intanto non si sapeva da quale paese, ma sicuramente poteva essere yemenita o che so io. Alcuni nostri amici che abitavano nelle vicinanze ed ebbero modo di conoscere la Yeti rimasero tutti di stucco, per non dire a bocca aperta, quando la videro. Mancava solo che le portassero le noccioline e il quadro era completo. In un attimo si sparse la voce e tutto il vicinato cercava di fare in modo di venire a vedere la donna scimmia, come la chiamavamo. Impossibile non restare colpiti dalla sua bruttezza, anche se è una cattiveria, lo so dirlo, lo so. Così diversa, così pelosa, così bassa, così simile ad una scimmia e anche brutta, faceva veramente impressione. Sicuramente al suo paese poteva essere una donna dall'aspetto comune, ma noi, con la nostra ironia, la nostra stupidità, non potevamo fare altro che farla bersaglio di critiche e battute irriverenti. Poi, un giorno scomparve e nessuno ebbe più sue notizie, neanche Joe. Joe ormai non c'è più da 15 anni, ma grazie a lui noi avevamo conosciuto la Yeti, la femmina dello Yeti, come la chiamavamo molto cinicamente. Come eravamo spietati, allora. Quella piccola Yeti in miniatura non ci faceva affatto compassione, né tantomeno ci induceva all'indulgenza. E comunque è rimasta l'unica Yeti che finora ho conosciuto. Un giorno Joe disse: «Noi europei», e lo disse dopo che Yeti scomparve, «noi europei abbiamo un concetto particolare della bellezza e della femminilità». E penso che con questa frase abbia voluto dire che siamo stati tutti un po' maleducati. Non gli era certo sfuggito il nostro comportamento provinciale e idiota. E forse non era sfuggito nemmeno a Yeti, che probabilmente si era sentita offesa e magari fu proprio il motivo per cui partì, senza avvertire nessuno e senza lasciare traccia di sé. E Joe aveva ragione, eravamo degli idioti, giovani e davvero troppo stupidi. Ma l'esperienza con la Yeti resta comunque indimenticabile. Chissà poi che cosa significa quel nome, Yeti, che mai fu così tanto appropriato. Tavola Marisa nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito, come sempre, tutti i giorni, insieme anche ai brani che mandiamo in onda, se siete curiosi di sapere quali sono. Il sito è radio24.it, la nostra pagina, Voi siete qui. E dicevo, a un pranzo o ad una cena, l'hanno chiamata Marisa, le hanno scattato la foto, è estate perché ha su un abitino leggero e ha i capelli biondi. Una cosa che non capisco però, e le chiederò il perché, se lo ricorda, è perché a tavola, con degli amici di fianco e del pane di fronte, tiene in mano una penna. Pronto Marisa? Sì Matteo, ciao. Come stai? Tutto bene Matteo. Marisa, tu sei una delle più affezionate ascoltatrici, ma anche scrittrici direi di questo programma. È la terza storia che ci mandi. Sì, una stagione. C'è uno zoccolo duro che tu, Marco Bo, ce ne sono alcuni che proprio mandano. Ma sono stata fortunata. Li raccontiamo ad ogni stagione. Perché c'è una penna in mano in quella foto? Perché stavo scrivendo una poesia. Ah, scusami, sei a tavola con degli amici ad una festa o in un ristorante? Sì, no, era un pranzo di Ferragosto. E stavi scrivendo una poesia dedicata a cosa? Mi era venuto in mente in quel momento e la stavo scrivendo. E te la ricordi? No. Ma non ti ricordi neanche di cosa parlava? Di cibo, tipo? No, beh, mi dovrei rivedere... vabbè. E non c'era nessun amico? Ragazzi, Marisa ha cominciato a scrivere la poesia? Non c'era nessuno che ti prendeva in giro? È per quello che mi hanno fatto la foto. Ah, ok, perfetto. Eri un po' la freak in quel caso. Come? Eri un po' la freak, tu eri un po' la strana tu in quella situazione lì. Sì. Senti, grazie. Vogliamo parlare di questa povera donna sì. Che abbiamo massacrato al punto da farla andare via? Sì. Scusami, lei, vabbè, abbiamo capito che veramente aveva una forma scimmiforme, sì, se ha senso sì, dire. Sì, quello era. Ma era anche piccolina proprio. Ma essere stata alta 1,40 m. E non abbiamo idea di dove venisse? Cioè dalle isole Samoa, dalle isole Fiji? No, purtroppo no, non credo delle Fiji, ma non riesco a ricordare. E quanto si fermò più o meno? Ma qui da noi sarà stata 3 settimane forse. E scusami, e Joe, il vostro amico, a parte quella frase che comunque è abbastanza chiara, non ha più detto nulla, non vi ha dato degli imbecilli in maniera aperta, insomma. No, era un signore. Ok. Lui, scusami, lui che è un personaggio, è sembra un bellissimo personaggio da come la racconti, no? Un uomo che aveva viaggiato, sì. Che aveva che era anche meno comune in quegli anni. Parliamo di quali anni, perdonami? 80? E beh, quando io l'ho conosciuto, sì, erano negli anni 80. Ok, quindi era un signore, insomma. Ecco. Ed era una persona affascinante, come la racconti? Sì. Poi ci ha raccontato tante cose, tanti, diciamo, pettegolezzi sul mondo dello spettacolo. Sul mondo dello spettacolo. Che adesso ci racconterai, tipo, raccontaci qualcosa di Sofia Loren negli anni 80. No, non posso, so pure le foto, ma non posso. C'hai le foto di Sofia Loren che ti aveva dato lui? Sì, ce n'ho una in particolare, no, proprio negativo. Con la Sofia Loren con pantaloncini corti che sembra la Mangano in quella famosa scena di Riso Amaro. Di Riso Amaro, certo, certo. Senti, invece, Marisa, prima ci domandavamo io e Tiziano, è vero che tu ci hai mandato diverse storie, però comunque perché hai scelto questa storia per raccontare qualche cosa di te? Perché alla fine questo è quello che noi chiediamo, no? Raccontateci un episodio della vostra vita che in qualche modo vi racconti. È una sorta di esorcizzazione della cattiveria che vi aveva attanagliato in quell'epoca? No, neanche tanto per questo, ma perché me ne sono ricordata, semplicemente. Allora, se c'ho tempo un attimo devo dire un'altra cosa. Certo. E siccome io ero anche amica di Juan Rodolfo Wilcock, che è uno scrittore, okay. E lui scrisse per il teatro una commedia che si chiamava L'abominevole donna delle nevi. Sì, parliamo sempre di quegli anni, 80 più o meno. Sì. Ok. Sì. E così poi per associazione mi sono ricordata di questa lieti. Ok, ma tu che mestiere hai fatto, Marisa, nella tua vita? Io in effetti non ho fatto nessun mestiere vero e proprio, tranne quello di essere scrittrice, però ho potuto viaggiare con mio marito che ha lavorato all'estero molte volte. Quindi avete vissuto all'estero anche? Sì. Ok. E adesso in questo momento sei a Velletri però? Sì, sono... Dove splende un bellissimo sole? Come no? L'ultima facente, questo Uriah Heep, chi cos'era? Era un attore o era un personaggio? Era un personaggio. Perché mi è arrivato un messaggio che dice: ho visto lo sceneggiato, era David Copperfield. Ovviamente il nome Uriah Heep era pronunciato chiaramente sbagliato, e da lì il nome della band protagonista. Vedi. Vabbè, abbiamo ricostruito dei pezzi. Marisa, ti ringrazio per la storia, la chiacchierata e anche, diciamo, e anche per la confessione. Non è facile ammettere no, di essere stati cattivi fino quasi certo. alla stupidità. In una... E comunque devo dire che tu hai valorizzato di molto questa storia. Ma guarda, l'ho solo. Non ho cambiato molto, ultimamente le storie. No, però è il modo di leggere. Va bene, Marisa, ti ringrazio moltissimo. Grazie a te. Ciao, a presto, ciao. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. 349-238-6666, continuano ad arrivare messaggi, evidentemente è una situazione comune che succede di frequente. Scusami, è che abbiamo l'orologio rotto qui e non riesco a capire che ore sono. Sono 16:28, perfetto, 16:28:40, Paolino me lo fa capire perché manca di fatto un minuto. Vi leggo alcuni messaggi. Mi sono sentito diverso in un campo profughi di curdi iracheni, ero il medico di turno, invitato a pranzo da loro, feci istintivamente il segno della croce, mi guardarono tutti ma solo con curiosità. Paola, non ho la TV e in ufficio non sapevo che cosa fosse NCIS. Comunque ci sta, Paola, cioè, vabbè, Tiziano Bonini non ha la televisione, ma neanche io che ce l'ho lo so. E poi volevo leggere quest'ultimo messaggio che dice: Sabrina, quella volta che andai al cinema porno Ambra di Milano, adesso è tipo un locale fashion, credo, è lì in Viale Montenero, all'Ambra di Milano per uno studio antropologico, giuro, tra parentesi, ed ero l'unica donna, praticamente. E e fortunatamente invisibile. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Ricordo di scaricare il podcast del programma se volete riascoltarvelo dal sito di Radio 24, da iTunes, in tutte le forme che volete gratuitamente, altrimenti in streaming, o se no siamo in diretta a quest'ora e in replica alle 5 del mattino. Altrimenti, se non avete voglia di ascoltare, mandateci una storia. Voi siete qui, @radio24.it. Grazie soprattutto a Marisa, un grazie però anche alla piccola Ieti, direi, che c'è stata in mezzo a questa storia. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Paola, lavoro e vivo a Milano. La storia di domani è la mia e parla del prezzo delle parole. Questa è la mia storia ed io sono qui.